azzardo? Pensione azzardo? Azzardo, ci sei in agguato? Ora la cipolla, K! Azzardo, ci sei? Egare, che è avanti? Chi è che stava chiamando? Hola, hola. Attenzione, canale 10, c'è qualcuno? Azzardo, ci sei in agguato? Hola, hola, hola. Azzardo, ci sei in agguato? E chi sei tu? E tu, Azzardo, sei? Ehi, buonasera. Ciao, Azzardo, me l'ho ascoltato. Da questa parte è Zebra. Cordialità. Io non sono Azzardo, sono Antonio, Antonio Bombolo. Dove stai chiamando tu? Io? Io da Santo Lussurgio. Sì, domani. No, oggi. Domani non mi gioco. Sono a San Leonardo. Banto. Ma chi sei? Antonio sei? Antonio chi? Ma Antonio non sei tu? Sei Buruddu Antonio. Cosa siamo? Allora, se ne sapevo un altro, ma ti c'è Muraire. Mi pare la voce di Antonio Riserva, mi pare. Antonio Riserva? Già l'ho conosciuto tempo fa, uno che si chiamava Antonio Riserva, ma non era morto? No, già è vivo, già. Mi ha detto che era morto. Sì. La campagna, sai, sta modulando. Hola, hola. Poi tre prova. Azzardo, ci sei dal guasto? Chi è avanti? Bombolino, non sei in giro a prenderti un po' l'acqua. Sono un po' più in culo. Andiamo, chiette. Non vedi uno in giro. No, idem. Ma dice che sembra domanda che migliora. Lascia vedere. Ma penso che domani migliori. Sì, ma anche da oggi, capito. Domani 20 gradi, poi 21, risalgono i gradi. Pensa che venerdì 24 gradi, giovedì venerdì. Raga, mi sa che stiamo facendo zona gialla, minando tutto canto a mare. La prossima settimana, secondo come va. No, arancione. Ehi, arancione, un gabbo si fosse arancione. Andiamo, che è? Anzurami, mi sono fatto una bella doccia. Io dopo, tra un po'. Però è fiaco di guiuppa. Andiamo, che è? Ui, ragazzo. Oi. Come vali? Tu muccio, Cosa? Addio, tutto muccio, è Santa Maria di Ibiza. Io che abito semplice. C'è il casino? Più o meno, meno più. Cappa, ci ho provato, già ci ha fatto uno spinotto. Dove gli ho provato a voi, a vedere se andava con i cuffi. E qua c'è l'attacco delle cuffie, c'è. Ho capito. Buono. Attacco grande mi sa che c'ha. Ho trovato il coso. Il jack. Eia. Beh, allora giù a... a provarlo. Andiamo, vai, andiamo. Da voi posso la bagna, posso, bacianotti. No, io già fatto. Già fatto a pranzo. Stasera mi posso la pizza. Andiamo, che è te? Andiamo, che compara la goccia un beme. E cosa? La pizza. Barricami dai occhi. Una margherita solo, quella gigante, viene di zero. Ma che costa così, dai, vabbè. No, me la vuoi subito, ma ti ha pigliato tu. se c'ha il forno, te la fai tu, ti compri la, la base per pizza, la stendi, metti un po' di sugo, mozzarella, e se no non ti esci, e a voi la terra che basta, ma Marina ti, ti sazia, a voi, ma dopo ti avanza anche. Come fai? Cioè, dove la trovi? Allora spiegi, Gianato, base per pizza. Ti prendi un pacco di mozzarella e spendi, bah, cosa spendi? 50, 350, 350, fai 5 euro, 6 euro neanche, e ti fanno da pizza, poi dipende, più ingredienti metti e più spendi, però ti dice una, come ti piace a te la pizza? Se pongo una gorgonzola in mezzo. Ecco, allora fai, ti prendi la, la, la base per pizza, un pacco di mozzarella, io ne metto due mozzarelle, un pacco ce ne sono tre, sennò diventa troppo, però ti conviene prima farle asciugare bene, te le tagli a pezzettini piccolini piccolini, metti nello scottex, magari un'ora prima, perché sennò poi è un bella cosa, capito? E poi ci metti i pezzi di cosa, lì guarda, fai, sono 2, 4, 5 euro spendi. Che non lo so se è aperto, se non è andato a pigliarla. Ah, penso di sì, oggi sì. Ti volevo dire, ma ci vuole anche la carta forno? No, ma ce la c'è già la carta forno nel, nel, nella base. Ah, vero? Certo che c'è sì. Ma c'è forno a gas o forno elettrico tu? Forno elettrico. Ah, no, va bene, a te c'è un bombo. La teglia c'è. Ha canto la buona di gradazione, sì, già veggia. 200 gradi mi sa che sia. Marina, la pizza quant'è? 200 gradi? Eh? 200 gradi, ma c'è, c'è scritto comunque, tu leggi nella base, c'è scritto, sa, o 180 o 200. Guarda, se vuoi ti escono anche le pizzette, l'esce è veramente buona. Il sugo metti quello così, quello delle bottiglie? Queste sono le bottiglie di sugo piccoline piccoline, le vai delle Rospin. Se ne prendi un pacco, e noi il sugo lo facciamo da lì, esce molto buono. E ne metti mezza bottiglia di quello lì, in un coso, in un contenitore. E ci aggiungi un po' di sale, se ne hai origano e un po' di olio. E lo mescoli bene, e lo lasci riposare. Ma puoi mettere anche subito, lo puoi fare subito all'istante, ma io ho fatto la stamattina, sono mai riposato, e si prende un buon sapore. Mi pare che era pozzo, che. Valla, valla che è un... piano piano di stare attento alla trottola della pista, perché già è facile, una volta che la levi il primo pezzo, poi già la tira e ne esce. Ti fai i condimenti, la metti nella teglia, ti fai i condimenti, la puoi essere in forri. Andiamo, cazzo! Vai, buco, vai! Io a Claudio, mi, beh, Claudio! Sì, sta ascoltando, gappa gappa! Con la pisella stai uscendo! Cosa? Con il pisello stai uscendo! Con il pisello? Questo segnale che hai? A questo ti devi abituare, non ho giù altro io! Sì, andiamo, andiamo! Ciao, Cla! Andiamo, segnale 9, sì. Va bene, l'importante è che vi senta, mi senti. Va bene, dai, proseguite, a frappè. No, ecco, un attimo che voglio salutare il mio amico. Ciao, Matteo. Ciao, amore mio, che fine hai fatto? La fine del topo. Guarda che svengo io, mi ti do una mano a portarla lassù. L'antenna, mi. Vorrei tirata su, è piazzata bene, adesso mi aggiungiamo giusto per accedere alla radio, ascoltare, dai, cioè, va bene. Vabbè, dai, comunque è sempre un piacere ascoltarti. Ho fatto pure io, ciao Michel. Ciao, Lu, anche tu sei comunque, sei sempre nel mio cuore. Tu sempre, Anto, quando ti sento mi si addrizza i piedi delle ascelle, allucinare, non ne ho me, e poi mi si addrizza, non chissà perché. Andiamo. No, mi sono fatto pure io per Claudio, senza problemi, quando vuole, prima che muoia, sai, i tempi corrono brutti. Lo sai che io, chi ha tempo, non aspetti il tempo, a te ne è piazzata, che è bassa bassa, capito? Ci vuole l'autoscala per tirarla su, non aggiungano qua. Però non te ne ho fatto, già ti mando la foto. Dai, divertitevi ragazzi, ci sentiamo un altro momento. tanto, ciao. Ciao, cra. A voglia che arrivi però, cavolo. Non c'è problema. Ciao, cra, io sto aspettando la chiamata. La radio è sempre la stessa, comunque. Il segnale più basso, vabbè, andava. Il cazzo, l'autoscala addirittura. Vai, in chi vuoi entrare la tua autoscala? Ehi, vabbè, ci proviamo, ma comunque non è facile. Non è facile perché già montarla è stato un casino. Comunque, va bene, dai. Ci sentiamo un altro momento, statevi bene. No, sto andando col baracchino, con l'Airbex 4082, non c'ho altro. Capite, tutto dentro le scatole ancora. È giusto per vedere se funzionava l'antenna. Claudio. Lui. Ho detto che io stavo aspettando ancora la tua chiamata. Stai aspettando ancora? La tua chiamata. Ah, Tino, sì, ciao. Tino, ho dovuto chiamare una società perché stavo tardando troppo, altrimenti pagavo la penale della casa, capito? Quindi ho dovuto fare tutto in fretta. Abbiamo fatto tutto un lunedì e un martedì mattina, praticamente. Capito? Se no, glielo sai, te l'avrei chiamato. Va bene, vi saluto. Non so se mi stai ascoltando bene, Tino, dai. Sono qua con Sean, in casetta. Sì, va bene, va bene. Il segnale è a varo questa radio, ma già la radio è una bombetta. Vabbè, devo uscire, ciao, divertitevela. Ciao, ciao, ti, alle prossimine, dai. Sto andando con 4 watt qui. Va bene, dai, riprendi. Oh, Luca, sentiamo un altro momento, comunque, già mi sto ascoltando, ciao. Ciao, Cla, ciao. Tino, se sei libero domani mattina, se vuoi, e prenderti quelle ventole, ci vediamo su a mamma, come sapere, dai, ciao. Qua, lui, ti ringrazio, domani è un casino, perché devo fare cosa che posso spiegare in verticale, magari domani sera. Domani sera io arrivo a casa verso le 8:30. Ascolta, fa una cosa, tanto mi sento con Antonio io. Se ti viene bene, se vi sentite, dalle anche a lui, poi già me le passa a casa, che gli viene di passaggio a lui. Perfetto, le do Antonio allora. Va bene. Andà bene, ciao a tutti, ciao, a dopo. Ciao Muccolo, ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao, allora hai capito, te la fai o no? Non lo so, ci sto pensando. Ci sto pensando veramente. Ripeto, è buono, io se no faccio merenda, se no sono puttito. Niente. Forse mi bevo qualcosina, vediamo. Però merenda niente, altrimenti stasera. Che ti ha detto? Ma mi vuoi avvelenare, mi ha detto. Ma quando mai? Cosa avvelenare, è buonissima. Devi mettere i gradi giusti, controllarla, sotto soprattutto. Ma tu, è buona, poi, a gusto, mettete un sacco, se no la prenderei, no? Capa. Ah, mi pongo le botte e ando a pigliarla, mi pare. A rigonza anda. Ci dai la gonza. Prova ad andare su internet, cercate il numero, io non ho il numero delle cucce, e vedi se è aperto. Sotto lo cerco io, me, dimmi tu. Andiamo, allora aperto, chiude alle 20:30. E visto, fate un salto, va, ti compri tu. Ho salto, metto con la gorgonzola te la fa, e allora va bene. E so ci sono, questa è una cazzata, quei funghi in barattolo sono buoni. Poi ci sono i carciofi anche, prosciutto, che sono voi? Compro una salsiccia, te la fai con la salsiccia. Boh, vedi te, come dicono a Milano. I carciofi già ce li avevo, me li ha giù mangiato, ma non è dirne. I carciofi di chi c'è di Milano? Ma vai non a mare cosa Milano. Chi ci vale d'oria va via. Ma ce lo vuole imbarato, tanto quelli pronti, capito? Se la fanno bene i carciofi, fanno bombettare. E qua te la radio è cutto uno. Andiamo. Il microfono. Gare, chi è che sta entrando? Avanti. Andiamo. Andiamo. Andiamo. Andiamo. Andiamo. Andiamo. Ah, casco, fumo c'è anche. Scusami, qualche gambo di fumo c'è, qualche spinellino che ti tasca le tasche. Oh, ecco, muoi, cania, che ti mi stanno stressando le tasche, aiuto. Ma scusami, queste sono fresche, fresche, fresche, fresche. Ecco, spingi che ti stressano le tasche, io ho comprato la birra. No, c'è 100 euro, 3 monete, non è una suice coppa, mi dispiace. Cazzo è che c'è in spiccio i cazzi? Cazzo è che mangio la voce in tutta l'altra buccia amare, cazzo? E non mi dichi della voce, mi gioco un po' a mare, mi gioco un che mi tendo male, voglio la fribba, faccio. No, io voglio la voce di cucina che ci sono grazie di cigarette, alla ora, cazzo. No, voglio la voce di cucina che rimani per la mezz'ora di oggi, l'internato, e praticamente ci voglio tutto il resto. Ehi, anche se andiamo qui, andiamo, che? Aiuto, finiamola là! E beh, Dani! E beh, Dani! E beh, Davide! Se ti cattrini non mi ti pesci! E beh, Dani, e beh, Dani, e beh, Giova! Chi c'è coso, Sant'Orsola! Cosa che da giù vista la tua antenna? Piccolina, No, è normale! Cazzo è normale? È a 12 metri la punta! È a 3 vattamanna! Io c'ho tutto quanto il palo che sale! E poi l'antenna! E la giù vista niente, neanche un'altra ne è montata! È la 510! Ascolta tu! Guarda che interessano Grand Plane per la 27 mega! E cattura si rende? 50 euro, ancora in busta, mi l'ha vista poco fa Luca. Ma chi è quella grande, l'EM? No. Aspetta che adesso ti passo il link, così te la guardi. Aspetta, 50 euro sono, sì. E io. K. Come erano le cose, le misure, Dani? Aspetta che sto riaprendo il link dopo, un attimino. Via, fai, fai. Mi ricordo io non era 5 ottave. Qua c'ha 3 radiali, un guadagno di 2,15 dB, no, un quarto non è 5 ottave, da un quarto d'onda, altezza 2,37, lunghezza radiali 64. Ma è la piccola, La piccola? Non è piccola piccola, è smontata. No, se mi stai dicendo 2 metri qualcosa è la minore, non è la grande. 2,37 metri in totale. Io non ricordo che era Gran Prix, era Biumanna. Quella grande mi pare che era 5 metri. No, tu ti stai confondendo con un'altra, magari. Questo è l'Assirio Signal Kepler 27. Ok, io sto uscendo, ci sentiamo dopo. Andare a tu. Guarda se sente qualcuno che gli interessa, te la sto dando. Ok. No, se infatti ti invio il link. E beh, Lu. Andiamo, andiamo. Che siete tutti i gatti drogati con chi stavolti. Andiamo, andiamo, chiacchi. Oh, yeah, chiacchi. Andiamo, andiamo, Lu. Andiamo, andiamo, che te? Che? Ciao, stavo spazzolando, va. Ciao, ciao Giomari. Ciao anche a Daniele e a Antonio. Mi narro Danilo Tapponau. Beh, Danilo, che si spingerò noi? Giomari. Mi chiamo Danilo io, non Daniele. Ah, mi sono sbagliato allora, va. Vabbè. E io devo fare la vecchiaia, Vabbè, in chiesa già sono Daniele. Ma l'anagrafe è con Danilo. È inutile, che sono facendo già questi, va. Sì, già, a questa età, mica sei ancora giovane, giovane, giovane. Tu sei giovane. È un bucio così giovanissimo. Oh, io sono un bambino, tu sei ancora giovane. Tu dici? Eia. Allora, più manno è... E Luca va. No, io ci giovano come a te, si fate da bravi, pure io sono giovane ancora. Con tanti, come si dice? Acciacchi, però sono giovane. Antonio è giovane. E mi sa che Antonio è il più giovane. Eh sì. Eh sì. Vabbè, che va arrivi. La prima vi ho voluto buoni. Purtroppo la vita è questa, Che lavoro a voi, usci. Di passaggio siamo, così è. Siamo di passaggio. Comunque, funerali e fiori e balle varie. Vabbè, blu, niente sentito. Ma che cosa? Per l'antenne. Non lo metta nessuno, hanno detto tu, e là non sono entrato. Addirittura. Cazzo, frate, ma ti pare che non faccio una pubblicità a te? Ma stai scherzando? Io mica roba buona quella che si è arrata in combustia, mica è buona, vero? Andiamo, che... No, comunque tu, già... sono nuove, non hai visto ancora imballate dentro il cielo, fanciono? Sono nuove. Nuove proprio imballate. Oh, yeah. Dice che ci tagliamo un pochino questa antenna, dici come... No, già è giusta. No, perché ho visto lo smitter che sta uscendo in punta del gasino. Sì, già è tutto a posto. Cos'hai? Hola? O cos'hai? Sì, va a Dash. Si va Hola, va a Dash o Vernella o cosa, Dash o Dixon. Secondo me è vomino bianco. andiamo, che te? Ma quanto ce l'hai tu questo qua? No, non arriva qua. Non ti arriva? Io ce l'ho a 9, a picchi anche di 10 a volte. No, non arriva proprio qua, assolutamente. Io ho un'antenna di plastica. Sì, narra, la di gomma! Di gomma, di plastica, come le desidera. Diciamo che se questa boomerang la metto sul tetto già arrende, perché il palazzo è alto, non è basso, ma vabbè, va bene così, dai. Non vuoi avere problemi con i sciuri, non sono a casa mia, e purtroppo mi devo accontentare così. Quando non sei a casa tua è così, Lu, devi stare alle regole del palazzo, dei vicini soprattutto. No, se lo metti sul tetto rende molto di più, ha voglia che rende. Perché c'è dalla parte mia, cioè tu sei coperto, capito? Non è che sia campo aperto a parte mia, se c'hai tanti muri, quanto al palazzo. Lo so Dani. Vabbè, comunque arrivi bene qua, sei... fa un passaggio. Torna, sono 4 ore, va vedendo longu, e ancora non è mai dato quanto vaggio. Tu mi arrivi sul 3 del più 30, vabbè, lo stavo guardando, bene, non vedo bene con questi occhiali, devo cambiare gradi, capito? Cioè un attimino che do l'osso al cane, insomma, mi mangia il dito del piede. Bobboli, riprendi. Non c'è, è andato a comprarsi la pizza, la farina per la pizza. Tu, ma l'osso al cane cos'è che gli stai dando? Il dito del piede o che cosa? Ecco. Hola, no. Andiamo, che te, che... Vabbè, Lulu, non lo senti a questo? No, Dani, zero. Cazzo, è strano, Cazzo, lo sento un bel forte di radio e di segnale 9. Braccio sceso appena. No, nulla, Dani, nulla. Magari per la zona tua, per me no. Vabbè, io sono a campo aperto qua, magari anche quello. Sicuramente sì, ma è per la zona tua. Comunque ti stavo dicendo, al cane gli hai dato il dito o l'osso? No, l'osso, ho preferito dargli l'osso. No, perché se te ne toglievi l'unghia gli dava anche un pochino di sangue. No, l'unghia, adesso ce li ho corte, però ce l'avevo lunga, tipo lama d'acciaio. Per l'inverno io tengo lunghe, capito? Non si sa mai. Adesso che arriva il caldo io ti ho accorciate. Tu non ci crederai con la moletta gli accorciate. Lo smeriglio gli hai messo. No, il disco di avantatto. Di quello per grattare il muro, quello lì. Esatto, proprio quello, sì. Un po' di scintille via, su aria. Tipo quando un momento che la filmiera che lo fazia io. Dica un attimo, mi sto facendo i cani balluzzo, aspetta. 10, qui canale 10, c'è qualcuno? E che vuoi che ci sia, Giulio? Oh, ciao Giappa. Non c'è nessuno? Tutti in giro? Infatti stavo pensando, guarda, sai come si dice, fortunato è uscito. Stavo dicendo, ma Giulio però cosa sta combinando? Si è comportato talmente male Giulio che adesso il portantista non entra più. Ma cosa l'hai fatto Giulio? No, gli è sceso un accidente, gli è sceso e non può mettere più la portante. Comunque è sgamato, abbiamo capito chi è. Se fa in banda laterale parlando, ma te l'avevo detto Giulio, sono poverino, guarda, fa anche pena, ma quando mai poi in banda laterale si mette a parlare nel tentativo che non lo riconoscono, invece lo riconoscono tutti. Ma è un deficiente, no, ma cosa più grave per lui, non certamente per noi, grave per lui, che è una persona adulta, molto adulta, per cui non so io che cervello di gallina possiede. Mi è andato bene che qualcuno non l'ha presa male, è andato lì e gli ha troncato qualche succino, ma cosa vuoi ti dire, la mamma dell'imbecille è sempre incinta. Oggi stavo guardando quel filmato di quei due, no? Che hanno fatto bene in televisione, che hanno fatto quell'attentato. E sono talmente furbi che si sono messi davanti al fornitore a fare la bomba, no? E sono stati ripresi in pieno. Quindi la polizia non è neanche andata a cercarli questi. Cioè, ma ne vuoi vedere di gente... guarda, poverini. È gente fuori di testa quella. Non è possibile. Ma tutti i giorni c'è una novità, anzi se così si può dire, che poi sono ormai fatti giornalieri questi, le pazzie della gente sono infinite. Non è possibile, oh, i poveracci, vabbè, comunque anche loro sono dei poveri diavoli. E cosa ci vuoi fare? Ma forse stanno imparando da qualche gruppo dell'istituzione, non lo so. Ehi Giulio, ma guarda, io a volte rimango a bocca aperta di questi personaggi che... cioè ti fai vedere, ti fai, ma tanto vale, e bussi all'interno del carcere e dici ma scusate ma mi volete? Magari anche lì dico ma ascolta, ma vai via che sono imbecille, e non ti presentare, se no ti picchiamo e ti lasciamo in strada. Ma ti fanno anche pensare che lo facciano apposta, perché gente che nella vita non è stato capace di difendersi in nessuna maniera, e allora siccome sono dei falliti, adesso commetto un reato così almeno mi rinchiudono e mi fanno campare senza fare niente. Più che così non si può pensare, a un certo punto che cosa vuoi pensare di certe persone? Non è possibile, guarda, veramente. Io. Vabbè, evidentemente stanno bene rinchiusi, dai. Ma il fatto che a volte neanche li rinchiudono, perché sono talmente imbecilli che se li rinchiudi poi in carcere trovano quelli intelligenti, chissà cosa le fanno, capito? Quindi essendo proprio imbecilli non riescono a capire neanche quello che stanno facendo. Ma veramente guarda, ogni giorno ce n'è una e non saranno tutti malati di testa questi che capitano? No, non sono malati di testa, sono da rinchiudere un manicomio e basta. Mettervi testa a testa fra di loro, così almeno se ne cavano gli occhi fra di loro e lasciano in pace la gente tranquilla. E vabbè, comunque cosa vuoi fare? Oh, i buiui. Non lo so, ripeto, se l'effetto, l'effetto della, della TV, vediamo, vediamo tante cose in TV che non si dovrebbero nemmeno vedere, cioè che non dovrebbero nemmeno farli vedere. Evidentemente fanno la, fanno la casa, casa, cassa di risonanza, e allora c'è gente che impazzisce così per la gioia, magari per cercare una gioia di, cosa, di espressione, soprattutto di presenza in TV, perché poi l'hai visto, poi quando commettono una cosa del genere poi ne parlano tutte le televisioni per un mese intero, tutte le trasmissioni, anzi non tutte le televisioni e tutte le trasmissioni, dalla mattina alla sera non fanno altro che parlare esclusivamente di quel fatto lì. Evidentemente anche lì non hanno più idee per poter creare una trasmissione come si deve, e allora si, si buttano sui, sugli eventi giornalieri scandalistici e delinquenziali, eccetera eccetera, e solo così può, può spiegarsi la storia. Guarda, oh Gianfra, ma per una cosa sola, noi anche fuori, tu guarda, con tutto il casino che c'è stato negli Stati Uniti perché hanno ucciso quello di Cola eccetera, ogni tanto ne ammazzano un altro e per di più si fanno pure riprendere da, da, dai telefonini, dalle telecamere. Cioè, ma ancora non, non hanno capito che quando qualcosa facciano vengono ripresi, ci sono, voglio, cioè va, va oltre la, anche la capacità di essere capiti questi eventi, perché sono talmente sciocchi, talmente, cioè ammazzano la gente lì davanti a tutti, e poi li vedi lì in televisione, in tribunale, con la tutina rossa, ma non è meglio comportarsi bene e continuare a fare il proprio lavoro, perché di lì quando ti danno 20 anni o 30 anni, 30 anni ti fai, no, no, non è che sono tanto teneri nelle carceri americane, poi se sei un poliziotto fa anche fine brutta. Vabbè, sì. Sì, ma a loro interessa proprio quello, cioè risolvere il loro futuro, se, se così si può dire, o si può definire, anche se è un po' un futuro un po' avulso, però incredibile, guarda, non è possibile. Adesso anche qua, hai visto, l'altro giorno in via del Carmine hanno tentato di violentare una ragazza. Ieri mi sembra un'altra lì sulla Buddi Buddi, ma dico io, ma anche qui Sassari si sta mettendo in evidenza, per certi reati così, oi oi oi, vabbè, che tutto il mondo è paese, questo non ci sono dubbi, però anche qua sta prendendo piede un po' la delinquenza, si sta allargando sempre di più, Sì, vabbè, ma sono, sono cose veramente da fantascienza, guarda. Da fantapazzia, sono cose da fantapazzia quella. Non tanto la fantascienza, la fantapazzia che la gente... O è il Covid che gli genera certe idee nella mente alle persone, non lo so. So solo che purtroppo stanno succedendo queste cose sistematicamente, senza, senza che slitti troppo tempo, giornalmente così se ne sentono sempre, sempre, o in un posto o nell'altro, c'è sempre da, da, da chiacchierare per il buon, diciamo, per il buon trattamento poi che fanno i media, quelli si aggiungono e ti dimostrano tutta l'incapacità di riuscire a fare una trasmissione decente, perché ne parlano poi per 15 giorni di seguito, ne parlano su tutti i, i canali televisivi e su tutte le trasmissioni che fanno dalla mattina alla sera. Sembra che non esista altro modo di fare TV, sempre fatti di cronaca. No, che vergogna, che fine ha fatto l'Italia, che, o meglio che fine sta facendo, non è possibile. Quando, quando poco poco penso alla, alle trasmissioni televisive di un bel po' di anni fa, quando allora veramente si poteva chiamare TV. Oggi si chiama TV spazzatura. Ma purtroppo è così, di lì è in gioco l'audience, quelle cose lì. Quindi è sempre una questione di soldi, di pubblicità e così via. Tutta una questione di denaro. Ma le trasmissioni belle comunque ci sono, perché le volevo vedere. Di canali ce ne sono tanti, ci sono trasmissioni di cultura, di un'Italia che gira gira pochi conoscono, che è meravigliosa, è tra le prime, non ce n'è ecco, come l'Italia, per vini, per storie, per avventure. Noi ci fanno vedere sempre queste cose un po' derivate sempre da quella cultura americana, che non è certo da prendere esempio in molte cose. Cioè cultura non ho poca nel senso di storia, anzi ecco, di storia non ho poca, perché come paese è molto più giovane del nostro. Noi eravamo già nazione, perlomeno un insieme di persone, di comuni, di aggregazione, di lingue, quando loro non esistevano ancora, ecco. Quindi la nostra storia è bella lunga. Ed è così, assisti a queste cose, guarda, non ci posso pensare. Che però sono sempre di derivazione di una certa cultura bassa. Ma insomma, come si dice, il mondo è bello perché è vario. Sì, il mondo è bello perché è vario, quello è vero. È un detto perfetto, certo, però mi fa pensare che in certe situazioni manca la capacità di adattamento. Prima ci si difendeva meglio nel senso che la gente era più capace all'adattamento personale, eccetera, e alle situazioni del momento. Oggi invece no, oggi certe situazioni ti fanno capire che il loro adattamento non è altro che malvagità in molta gente, e questo è brutto, brutto veramente, e ce lo stanno insegnando i momenti e le azioni che sentiamo giornalmente, purtroppo è così. Certe situazioni provengono soprattutto dall'alto, e allora la gente le ripete e associa i loro comportamenti a certi atteggiamenti che sentono e che vedono. Purtroppo è così, già. E no, speriamo che non continui a rovinarsi il mondo dell'esistenza, perché pensandoci bene, ma non era meglio prima, quando si stava male, a differenza di oggi che si sta un po' meglio, e nel contempo stiamo sempre male, proprio per tutti questi momenti di assoluta malvagità che sentiamo in giro e che leggiamo anche sui giornali e che sentiamo anche nelle televisioni, eccetera eccetera. C'è da pensare anche questo, Sì, però vedi, Giulio, non devi essere così pessimista. Tutto questo pessimismo è dettato sempre perché, un po' per natura, un po' per curiosità, si tende sempre a guardare le notizie brutte. Però, guarda, proprio avanti ieri era la festa dell'aeronautica, e hanno fatto vedere l'addestramento di ragazzi di 20 anni, di 21 anni, alla scuola allievi ufficiali, adesso non mi viene, credo che sia anche quella di addestramento di coso che c'è, credo sia in Puglia. Cavolo, ma sono dei ragazzi che sono la speranza, veramente sono, a parte gli studi e la complessità e la responsabilità che le danno sulle spalle, ma sono tanti, ci sono ragazzi e ragazze che fanno questo addestramento per guidare gli alieni da caccia, la stessa Cristoforetti, quella che abbiamo sentito anche in radio quando era nello spazio, che è anche astronauta, adesso è diventata istruttrice. Lei ha iniziato facendo proprio l'addestramento come pilota da caccia e adesso insegna a questi giovani il lavoro, diciamo. E di lì non c'è da scherzare, cazzo, magari ti danno delle macchine che costano centinaia e centinaia di milioni e così solo per il gusto. Devi essere molto, molto preparato, ti devi confrontare anche con tanti altri paesi della NATO, eccetera. Quindi non essere così possibile, e così succede anche in tanti altri campi, in campo medico ci sono tantissimi bravissimi ragazzi che diventano anche degli ottimi ricercatori e così via. Non è che in un gregge dove ci sono tante pecore, quella che si distingue è sempre quella nera, se non stato, la prima che vedi, però devi guardare anche la maggioranza che è bianca. Infatti è quello che si dovrebbe seguire, l'ideale della maggioranza, solo che la cronaca fa più effetto, viene messa in risalto da più persone, con una percentuale molto ma molto più alta ai fatti concreti, ai fatti seri. Quando c'è da fare chiacchiere, la gente trova anche le parole giuste per poterle fare, mentre invece per parlare di cose più serie ci vuole più capacità e soprattutto capacità critica, cosa che oggigiorno manca abbastanza, diciamo, frequentemente. Già lo vediamo tutti i santissimi giorni e certe notizie le leggiamo anche. Uno non fa altro che sparare. Interessante è parlare, o è interessante portare avanti un articolo di giornale, o perlomeno è interessante portare avanti una trasmissione a quattro soldi. Tanto su quella trasmissione, poi quello che conta alla fine, quali sono i soldi che ne ricavano dalla pubblicità, ma non certamente dall'interesse costruttivo che può interessare alla società. No, interessa solo alle persone che hanno delle idee da certosino. Purtroppo è così, già fa. Ma adesso stavo anche riflettendo un attimino, parlando di certe cose, magari noi che abbiamo la passione della radio, del lubi, della radio, probabilmente facciamo male anche a parlare e fare certo tipo di discorsi, perché ho la sensazione che quando si parla di qualcosa di interessante e soprattutto di costruttivo che serve nella vita, la gente rimane magari all'ascolto ma non ha il coraggio di entrare e partecipare all'argomento stesso. Se invece parli di cretinate, allora avviene un affollamento anche in radio, affollamento tra virgolette, chiaramente, perché tutti sono ben accetti, questo è più che scontato, ci mancherebbe altro. Però ho avuto un po' l'ansia che mi sia sbagliato, ma ho la sensazione che anche in questo particolare ci sia un'influenza negativa a riguardo di certi discorsi che magari facciamo noi e tanti altri che non fanno, Gianfra. Secondo me stai andando male. Secondo me stai uscendo tutto a fischi. Comunque c'è stata anche la voce della signora Cesira, vediamo un po' se entra. Signora, buonasera. Ciao, Luca, avanti. Ciao Giulio, ciao l'altro amico. C'era anche Luca entrato un attimo. Ciao, chi sei? Spero di non sapere qualcuno, perché sono in macchina e non sento molto bene. Sono Bruno, così, stavo ascoltando il Giulio, e te c'è entrato, che questo qui poi è andata nella categoria dei Morelli. È probabile, però stai mescando, vediamo se ci sente Giulio. Giulio, lo senti a Bruno? Sì, che lo sento. Se lo sento perché mi sa che è anche in zona. E qui? Dove te ne sei andato oggi, Bruno? A farci la sua solita pescatina, visto che perlomeno mi risulta che sia appassionato di pesca, e adesso sei magari di rientro, anche dalle mie parti tra l'altro, e però sei accompagnato dalla musica nel microfono, da un bel fischiettino. Avanti Bruno. Forse ho toccato, perché quando lo metto lì non funziona bene, quando lo sposto c'è una cosa, ma magari funziona male. Lo so, sei vicino a Dulbia, lo so, infatti ti sento così bene proprio perché sei vicino a Dulbia. Vicino ad oggi, hai sbagliato numero, non a Dulbia, vicino ad oggi sì. Sofia, vabbè dai, come mai chi ti ha dato il permesso di passare le barriere qua? Chi te l'ha dato il permesso? Già lo sai che qua mi richiede il permesso per entrare, eh? E questo ormai è risaputo da tutti, e mentre invece tu probabilmente non eri ancora informato. No, così va bene, come l'hai messo adesso va bene, lascialo così, perché se no incomincia a cigolare e a noi le cose arrugginite non ci piacciono. Vero Gianfra? No, confermo, adesso sta andando bene. Non so se lui mi sente, perché se è nella sua zona, Giulio, perché non sto uscendo? Sto uscendo a bassissima potenza, come? Un attimino che devo controllare l'apparecchio, perché sto uscendo troppo basso, ho visto. C'è il dosmetro che mi dice... Ah, no, come non detto. No, era un errore sull'impostazione. Già sto uscendo. E dicevo che mi meraviglia che lo senta ancora a Bruno, se nelle tue zone, perché in macchina, figurati, è una zona molto coperta per me. E riprendete un attimino che mi allontano, che devo limare una cosa per poterla saltare. Andiamo, che fa? Signora Cesira, come fa? Andiamo, che fa però? Attenzione, presa. Bruno, non ti rispondi. Bobo. Vabbè, Bruno, sta avvalendosi della mia capacità d'antenna, e allora si è agganciato alla mia antenna, si è agganciato, per cui già lo senti, Gianfra, non c'è problema, e lui sente bene a te. Poi per quanto riguarda la tua stazione sta andando benissimo, dunque sei sotto la mia osservazione, come lo è da Bruno, sei anche tu sotto la mia osservazione. Avanti Luca, visto che sei andato di me, prova a dirti qualche cosa che andiamo a aprire, però. Andiamo, boh. Giù, dai, stavo rispondendo a un messaggio. Stavo ascoltando un audio WhatsApp. Buonasera, parliamo di Farrubiello oggi, per carità, va. È vero, mi cambia da un giorno all'altro come cambia la situazione climatica, e proprio, guarda, c'è quasi da vergognarsi. Ma quando mai siamo così guaci qui in Italia, che ci trattano anche climaticamente, ci trattano in questa maniera? Se così si può dire, Bruno. Se sto basso, vabbè, lasciamo stare. Adesso mi sto spostando perché è giù, sono sceso a mettere la moto, ho preso la macchina e metto la moto lì, hai capito? No, la Giuseppe, per non arrivare da te lì. Adesso è chiusa l'officina, adesso è il nostro garage per le macchine, per i divertimenti. Ma crudo fuori questo bannui. Oggi non sono potuto andare a fare una passeggiatina a Prata Mora, anche perché dice che non si può attraversare il comune, boh, non se ne capisce niente giù. Perché siamo di colore Campari, siamo. Al momento siamo di colore Campari, mentre invece lunedì siamo di colore Aranciata. Passiamo dal Campari direttamente all'Aranciata, boh. Siamo dopo una manica di guacce in questa Italia. Io sto generalizzando chiaramente. Poi cosa vuoi che ti dica, oh Bruno, non so cosa dici, guarda. Dai, ti prendi Luca, che nel frattempo rientra Gianfranco anche. Bene, cosa ti ho detto Bruno, visto? Luca dice andiamo e invece andrà sempre male, che lui fa questa entrata così e poi sparisce di nuovo. Vediamo se è rientrato Gianfranco. Anche Gianfranco è assente, per cui va bene, aspettiamo. Sì, è così, oh Bruno. Tornando al discorso che stavo dicendo ieri o stamattina, mi sembra, che dall'antenna da casa tua sì che ti sento, e ti sente anche qualche altro, stai tranquillo. Solo che a volte, sai cosa succede, Bru? Quando uno esce troppo basso, quello che sta ascoltando non ha voglia di ascoltare. Io sarò anche un pochino così permaloso, ma ho la sensazione che a volte succede anche quello. Però non è detto, perché se uno non ti sente, non ti sente e basta. Però io non ti sentivo bene, Santiago 8, Santiago 9, anche l'ultima volta che ti ho sentito da casa con l'antennino, che poi l'avevi portato un po' in avanti, no? Avevi allungato il braccio dove ce l'hai piazzato questa antenna. Io ti sentivo bene, la verità. Tutto di fronte, oh Bruno. Vabbè, no, è purtroppo giù, lo sai, te l'ho spiegato, che devono fare dei lavori, dobbiamo fare il tetto dove abito io, no? Devono fare questo capo, non so, devono sistemare, permeabilizzare, non so, e dunque cominciano i lavori fra qualche mese, per cui salire su, piazzare un'antenna grande è un casino, perché poi me la fanno buttare a terra, per cui adesso vado avanti così. Oggi ho messo il baracchino in macchina perché, ti dico la verità, sono le punte adesso dove sto salendo, però avevo intenzione di passare sotto casa di un amico, perché l'altro giorno mi sentivo, stasera devo chiedere qualcosa, per cui ho detto oggi è serata il baracchino di macchina, anche perché così ero riuscito a fare un giro, ma non mi ricordavo che è tutto chiuso. L'unica cosa che era già Udo, sono andato lì al, come si dice, a lavarmi la macchina a Città Mercato, c'è, cioè quel parcheggio sopra, no? E lì c'è questo lavaggio, e gli ho dato una spruzzatina così veloce, senza asciugare, senza niente, una spruzzatina, perché dove abito io c'è una pizzeria, c'è una canna fumaria, e tutte le volte che parcheggio la macchina da sotto mi fa la macchina tutta a furigine, piena di furigine nera, per cui è un casino. E allora sono sceso qua con la scusa, sono andato, ci ho messo la moto, sono andato a Città Mercato e ho preso la macchina. Adesso sono parcheggiato un attimino sulla 131. Ok, già sei sotto osservazione. Quindi io ti vedo Bru, qual è il tuo movimento e qual è il tuo allontanamento, per così dire, dalla zona, da questa metropoli, da questa piccola metropoli di Borgata. Ti ricordi quando parlavamo al baracchino 43 anni fa e anche di più? Bei tempi, Bru, bei tempi. Oggi invece non c'è più nessuno, poche persone, basta. Prima invece c'erano centinaia di persone, c'era anche da arrabbiarsi. Allora, io non mi sono mai arrabbiato, perché sono intelligente, non mi arrabbio per il baracchino, non sono così macco. Però c'è tanta gente che si è anche rovinata, nel senso che magari si è anche sposata da lui, magari si è accavato di luce con la moglie. perché anche quello è successo. Vabbè, altri tempi e altri momenti di vita. Vediamo un po' se rientra Gianfranco. Gianfranco non è ancora libero da rientrare in frequenza. Vediamo se Luca è ancora attento. Luca, avvisare se sì o no. Oh, Luca è vero che non vi sia per questa, perché entra, fa sempre la solita battutina e poi questo tu mai sentito gli hai, boh. Non è possibile, Bru. La frequenza è questa oggi.